c'è scritto sulla copertina, non è che mi sono inventato una roba così. Ciao Fergal, buongiorno. Good morning Fabio. Cosa dicevi nei neri per caso? Ma i neri per caso io mi ricordo che erano quelli che facevano la cappella, no? No, aspetta, non erano quelli che facevano la cappella, erano quelli che cantavano a cappella, che significa un'altra cosa, poi te lo spiego. Le camerette a Tua, the moving station. Cominciamo bene stamattina, ragazzi. Buongiorno. Io sono Fabio Brescia, vicino a me c'è il nostro Fergal Kavna. Good morning. Good morning. No, good morning è un'altra trasmissione. Allora, adesso, no, adesso vedrai che si inventano anche l'irlandese. Cioè, sì, adesso ci copiano pure lui. Adesso vedrai che tra una. No, perché sai, no, chi hanno inventato? Stanno copiando Jean-Luc. Per quanto lui sia inimitabile, ma c'è una radio collega, non concorrente. Concorrenti sono altre, quella è una radio collega. Che praticamente se mi ha messo in onda un finto francese, lo sapevi? Adesso metteranno in onda anche un finto irlandese. Ah sì, ottimo, immagino ottimo, proprio di sì. Questo è Baci in Tour, la dedica consegnata sull'uscio di casa. Noi saremo insieme fino alle 13, Fergal e Dio, a farvi compagnia e a consegnare messaggi. Già tardi, porcaccia la miseria. Vi ricordo che Baci in Tour è un programma in collaborazione con le camerette a Canfora, arredamento specializzato per ragazzi che troverete anche sulle pagine gialle e sulle pagine utili. Baci in Tour. Questo è Moby con Natural Blues. E notizie che arriva per Moby, che sta lavorando con Elton John, che mix è un po' strano. Allora, voi state sentendo Baci in Tour, sono le 10:13, sono Fergal Kavna, accanto a me c'è Fabio Brescia. Allora, andiamo avanti con Irene Grandi. Questo, una volta, sappiamo tutti quanti, era la fidanzata del grande Jovanotti, però non più. Ma questa canzone dice la tua ragazza sempre, chissà. Bounce Radio to the Moving Station, 10:22, non ho neanche salutato Massimo Esposito che è dall'altra parte del vetro di regia, ti chiedo scusa Massimo e buona giornata anche a te, ma adesso come dire, siamo pronti ad emozionarci, cioè praticamente siamo giunti al motivo per il quale siamo qua due volte al giorno, tra le 10 e le 13 del mattino e le 15 e le 18 del pomeriggio. Eccoci arrivati al momento di Baci in Tour, la dedica consegnata sull'uscio di casa. Baci in Tour. E vediamo se la nostra Lara è in linea. Lara, buongiorno, ci sei? Grazie, fate battere il cuore delle persone che amate. Prenotatevi per il bacio consegnato in diretta sull'uscio di casa e ricordatevi amici che è gratis. Il numero per prenotarsi è lo 081 790 1411. Baci in Tour, missione compiuta. Vita, mamma maestro, Radio Tour, The Moving Station. Mi dicevi che finalmente qualche ragazza si è innamorata di te, Fergal? Sì, ieri ho scaricato la posta e ho ricevuto ben 9 messaggi, tutti dicendo I love you, da persone che non conosco. Ma stai parlando di internet, chiaramente. Sì, quando ho scaricato l'email ho detto, giornata felice questo, finalmente mi apprezzano. Io non ho avuto tempo di scaricare la posta, però anche a me ieri sono arrivati 5-6 messaggi che dicevano I love you, non sono le stesse ragazze, spero. Mi stanno facendo le corna. Non ci siamo ancora fidanzati, siamo già cornificati. No, invece poi leggendo i giornali questa mattina ci siamo accorti che si tratta di un virus che ha paralizzato i computer di mezzo mondo, si chiama Love Bug. Quindi hai cancellato subito i tuoi messaggi? Meno male sì, perché se no tutti quanti sul mio elenco di indirizzo avrebbero ricevuto un messaggio I love you da me. State molto attenti se ricevete dei messaggi con il soggetto I love you, anche se la persona che vi manda questi messaggi, anche se l'ID è conosciuto, perché potrebbe contenere questo virus letale che ha fatto impazzire ieri tutti i computer dagli Stati Uniti all'Asia, praticamente mezzo mondo con i computer in tilt per colpa di questo virus. E mi raccomando ragazzi, fate scarico sicuro. Ok, piccola pausa e poi Systematic. Every day. Infatti venerdì sera stasera sto ballando proprio Systematic. Ragazzi, potete inviare dei messaggi al nostro GSM Box allo 0348 24 38 888. Come avete già continuato a fare, avete già cominciato a fare, perché come sapete è il modo più semplice e veloce per raggiungere Radio Tour The Moving Station. I vostri messaggi al nostro GSM Box li leggeremo durante il corso della trasmissione. Ma adesso ci stiamo avvicinando ad un momento molto importante. Eh sì, questo è un momento dove voi potete dedicare una canzone alla persona che amate, alla persona che tenete cari, e questo è il momento di Just For You. Quindi mi raccomando, prego di scegliere un brano di a livello un po' migliore di questo Systematic, scusatevi, e chiamateci subito al 081 790 14 11. Bravo, ti sei ricordato pure il numero di telefono, complimenti. So che ti piacciono molto gli Smoke City. Questi sono bravi, Mr. Gorgeous come te, Fabio. È vero, grazie, sei molto gentile. Famosa pubblicità di un'acqua minerale, tra l'altro. Oh, sette. Mi piacerebbe che gli Smoke City tornassero a fare un disco anche loro. Sarebbe un bel cosa, un po' di musica di qualità. So che tra qualche giorno, anzi domani, vai a vedere un concerto molto importante, vero? Sì, è quello con, come si chiama, Nicola Fabi, che apre per il grande Sting. Ma vai a vedere più Sting o più Nicola Fabi, diciamola tutta, dai. Che ne pensate voi? Vabbè, manca poco più di un quarto d'ora alle 11 del mattino. State ascoltando Baci in Tour, la dedica consegnata sull'uscio di casa. Fabio e Fergal al microfono, Massimo Esposito in regia. E adesso Just For You. Pronto? Pronto? Connessione telefonica. Request run. Radio Blu! Accontentiamo Claudio che vuole ascoltare proprio Desert Rose di Sting. The Moving Station, Just For You. Station, salutiamo un po' di amici che hanno inviato dei messaggi al nostro GSM Box, Fergal, dai. Allora, c'è Candy che voleva sapere il titolo di una canzone, ma non ho capito quale, Candy, non ti posso aiutare perché non so. Poi Raffaella che manda un bacio a Carmine. Pat vuole avere delle informazioni che ti riguardino. Quanti anni hai? Io c'ho bel 30 anni. E sei fidanzato? Mi arrendo. Vabbè, comunque scherzi a parte, Pat, se vuoi vedere Fergal basta che tu vada in internet al nostro sito www.radiotour.it. Ma questo Pat chi è, scusa? Maschio o femmina? Patrizia o Patrizio? Questo non lo so. È importante sapere. Vabbè, ma gli ascoltatori non hanno sesso, sono tutti uguali. È vero, e noi li amiamo tutti. Bravo. E poi Dea, domenica ha baciato un ragazzo che le piace molto. Siamo contenti per lei. Fabio manda tanti baci alla sua mamma. E poi Ciro dice forza Napoli. Bravo Ciro, siamo d'accordo con te. Assolutamente, considerato che questa è la radio ufficiale del calcio Napoli. 8 minuti alle 11 del mattino. La radio dei grandi eventi vi segnala Tunnel Show, il cabaret di Paolo e Paolo, Nando Varriale, Ardone Peluso Massa e Maria Bolignano. Giovedì 11 maggio alle 21 presso il Teatro Diana di Napoli. Infoline 081 28 75 75. Prevenditi abituali. Radio Tour. Radio Tour. La radio dei grandi eventi. The Moving Station, quest'oggi Baci in Tour 2 al prezzo di 1. Fergal e Fabio in onda fino alle 13, Massimo Esposito in regia. E adesso anche le Tour News. Spagnolo? No, quiero hablar español. Pero che? Pero de che? Mazza che? Ruben Gomez, sempre mañana su Radio Tour The Moving Station, il nostro new hit, apre una nuova ora di Baci in Tour, la dedica consegnata sull'uscio di casa. Io sono Fabio Brescia. E io sono Fergal Kavanagh. Di fronte a noi c'è Massimo Esposito, saremo insieme fino alle 13. Radio Tour, The Moving Station. Orishas con questa bella canzone tutta cubana, tutta rap, che vi ricorda che state ascoltando Baci in Tour, la dedica consegnata sull'uscio di casa. E quindi se volete fare un bel sorpreso a qualcuno che tenete caro a voi, chiamate subito al 081 790 1411. E prenotatevi per Baci in Tour, ricordando tra l'altro che le consegne che l'ARA 007 e un B008 fanno a bordo della Turella per voi, per conto vostro, sono assolutamente gratuite. Per voi è sempre molto bello, no? Ascoltare in diretta radiofonica qualcuno che si emoziona durante la consegna di un messaggio. È una bella cosa fatta la sorpresa, perché è venerdì, domani è festa, è sabato. È perfetto. E poi tra l'altro, se tu dovessi mandare un messaggio in Irlanda alla tua mamma, no? Per esempio, Lara, la spediamo in Irlanda a consegnare un messaggio alla tua mamma, cosa scriveresti? La ringrazierei per aver prodotto 5 figli come me. Ma sentilo, Baci in Tour, la dedica consegnata sull'uscio di casa, la prossima consegna alle 11:20. Let's go, Let It Be The Night, Radio Tour, The Moving Station. È stato fatto un sondaggio, perché adesso voi sapete, no, l'Italia si riempie di straniere, Fergal. Tu, vabbè, eccomi qua. No, vabbè, tu abiti qua, cosa c'entra? Ormai sei quasi non nostro, insomma. Ma poi si riempie di straniere femmine. Nel senso di belle stangone svedesi, tedesche, due metri per armadi biondi, non so se avete presente. Ecco. Solo che. Quelle buone, bravo. Solo che dovete praticamente stare molto attenti quando andate a cercare di abbordare una straniera. Perché è inutile che andate là con questo vostro fair play e dite: Hi darling, I would like to meet you. Oh my darling, you are very beautiful tonight. Perfetto, una roba del genere. Perché meglio parlate l'inglese, meno possibilità avete di cuccare una straniera. Perché secondo questo sondaggio fatto da una società che si chiama Icaros, le straniere preferiscono gli italiani che incespicano con la lingua inglese. Io sono d'accordo, a me piace molto quando non parlano l'inglese, perché quei bei errori mi fanno, come si dice, lo so, stimolano. Hai ragione, ti stimoleranno pure, Fergal, ma tu non hai speranze di cuccare una tedesca, però, perché tu vai là, sei madrelingua, lo parli benissimo l'inglese e non hai speranze. Scusa Fabio, una tedesca, chi cavolo lo vuole? Questo non lo so. Non ti piacciono le tedesche? No, siamo a Napoli, io voglio una bella napoletana. Bella, calda, verace. Yes. Nera. Capelli neri. Spaghetti, pizza, vongole. Bello, con i nei. È troppo buono. Con i baffi. C'è Donald Jones, Radio Tour, The Moving Station. You know what's up. Dipende, guarda, ricordati Schiffer, no? No, ma aspetta un momento. Tu adesso fare tanto lo schizzinoso. E poi ricordati che Radio Tour è una radio satellitare. E in Germania in particolare, nella zona di Dortmund, abbiamo un grandissimo ascolto. Per cui non vorremmo offendere nessuno. Ovvero è Dortmund, perché ti dico, Fabio, la mia prima ragazza è stata una tedesca, da vicino Dortmund. Però poi 2 anni fa si è sposata. Ah, con un altro, chiaramente. Era Donald Jones con You Know What's Up su Radio 3 The Moving Station, 11:25. Siamo arrivati al momento di Baci in Tour, la dedica consegnata sull'uscio di casa. Baci in Tour. Allora vediamo se Lara è in linea. Lara, ci sei? Sì, eccomi qui, ciao. E se c'è, se volete prendere il vostro bacio, consegnate in diretta sull'uscio di casa. Ricordate che è completamente gratis. Basta chiamare al 081 790 14 11. Baci in Tour, missione compiuta. Rex New Hit, Kaliskan, Good Stuff su Radio 3 The Moving Station, 11:36, una bella canzone che ci porta a salutare una serie di persone. Allora, ciao Roberta, grazie per averci inviato questo messaggio al nostro GSM Box. Saluto a Bruno e a James79. Tu devi fare saluti? Sì, è arrivato un messaggio da Roberto e Marco che mi dicono che mi possono fare conoscere una bella napoletano coi baffi. Ragazzi, grazie tantissimo. Va bene. Vi ricordiamo che il numero del nostro GSM Box è 0348 24 38 888. Ma adesso vi è arrivato un altro momento molto importante. Yes, perché dovete prendere la vostra dedica just for you, perché fate sentire un brano a qualcuno a chi tenete care. Ma se uno lo vuole sentire da solo senza dedicarlo a nessuno, può richiedere lo stesso. Non c'è un problema. Beh, dedichiamo a chi vuoi. Questa mattina a Fergaledio vi abbiamo parlato di questo virus, I love you che sta infettando tutti i computer. È stato stabilito dall'FBI che è delle Filippine, arriva dalle Filippine questo virus, è che ne sono state fatte delle varianti per ingannare le persone. Cioè, vi potrebbe arrivare anche con l'oggetto joke, scherzo, barzelletta, oppure? Oppure very funny, molto divertente, ma quando mai? Ma quando mai? Poi ho sentito che è costato più di 1 milione di sterline in Gran Bretagna questo, già in un giorno. Di danni? Sì. Alla faccia mia, ragazzi, mamma mia, un virus può comportare veramente tantissimi danni al vostro computer, quindi fateci molta attenzione alle email che ricevete in questi giorni. 19 a mezzogiorno, pronti per Just For You. Attenzione, questo appuntamento Just For You è presentato dalla Camorette a Canfora, arredamento specializzato per ragazzi. Se per i vostri figli volete ordine e colore, comodità e praticità, il consiglio di Radio Tour è la Camorette a Canfora, in campagna a Scafati, Pompei e Avolino. Le Camorette a Canfora su pagine gialle e pagine utili. E adesso Ferdinando dedica a Maddalena e fa suonare su Radio Tour The Moving Station i French Fergal, My Heart Goes Boom. The Moving Station, just for you. Ci senti, ci ascoltaci, listen to us, che sarebbe meglio, no? Per la radio. Sabrina Perry su Radio 3 The Moving Station. Allora, abbiamo deciso, tu pasta al gratè, io farfalle all'insalata, e poi possiamo scegliere provola. La provola va bene, sì. Affumicata? Un po' affumicata, fa bene a quest'ora. Va bene. No, noi durante, insomma, nei primi minuti che precedono mezzogiorno decidiamo cosa facciamo a pranzo, cosa mangiamo per il nostro lunch, come dire. Oh, che fame. Già? Hai fatto colazione stamattina? Sì, ho fatto con la bella latte pure, sai, mi piace il latte tantissimo. 10 a mezzogiorno, vi dicevo, Baci in Tour, la dedica consegnata sull'uscio di casa. Adesso, visto che spesso durante le vostre telefonate o durante i messaggi che inviate al nostro GSM Box ci chiedete ma dove possiamo venire a trovarvi in giro, adesso ve lo diciamo noi, quindi orecchio alla radio, stiamo per arrivare ad un nuovo momento, Tour in Tour. Radio Tour in Tour con Berna e con Fabio Brescia. Vieni a scoprire i regali della nuova raccolta punti Alta Qualità 2000, domattina dalle 10 alle 14 in Piazza Medaglia d'Oro a Napoli. Tanti gadgets, musica ed i punti della grande raccolta Berna in omaggio. Radio Tour in Tour. Chiama 081 790 14 11. Per ascoltare questo, musica irlandese, questo come me, Fergal Governor, questi sono The Corrs, sono più belle loro che sono io. Comunque, voi state sentendo Baci in Tour, il consegno dedicato a voi. Allora, è arrivato il momento di Tour News con Radio Tour The Moving Station con Michela Sabiglia. Tour News. Dad Whitney Houston e George Michael, una bella coppia di brave ragazze che cantano questa canzone, il nostro new hit, la novità del mezzogiorno e 3 minuti. Bravi ragazzi, sappiamo tutti di George Michael, no? Appunto, ho detto brave ragazze, non ho detto bravi ragazzi. Ma ti vedo un po' upset. Guarda, if I told you why, Fabio, if I told you why. Io sono venuto in Italia per il sole, mare ci sta, ma il sole dove cavolo è? Sì, devo dire che il tempo ultimamente è un po' irlandese. Infatti, dicono qual è? Il 4 aprile pioverà per 40 giorni. Allora, è vero, mancano solo 9, quindi contiamo. Dovrebbe finire tra pochissimo. State ascoltando Baci in Tour, la dedica consegnata sull'uscio di casa. Fergal e Fabio al microfono, Massimo Esposito in regia, Lara 007, Dumbi 008 alla rincorsa del prossimo destinatario che raggiungeranno intorno a mezzogiorno e 20. Giardino della follia su Radio 3 The Moving Station, state ascoltando Baci in Tour, la dedica consegnata sull'uscio di casa. Ma Fergal, se io ti dico Pilates, tu che cosa mi rispondi? Pilates, direi che stai dicendo pirati, però come in modo cinese, no? Pilates! No! E invece sembra essere l'ultimo grido, l'ultima moda hollywoodiana per raggiungere il benessere fisico. E sembra un... ho capito bene, ma insomma mi pare un modo di fare la ginnastica, no? Ginnastica? La fitness, hai presente? Palestra, pesi, step. Palestra non è che sono molto alienato, no, io le ginnastica faccio in un altro modo. Scusa, fare posso capire che tipo di ginnastica fai, Fergal? La notte è tardi, poi ti spiego, ti mando un fax a caso. Va bene, poi me lo spieghi un altro giorno. E invece se volete raggiungere la piena forma secondo questa nuova moda hollywoodiana di fare ginnastica che si chiama appunto Pilates, andate in internet e raggiungete il sito www.pilates.co.uk e avrete le ultime notizie su come fare ginnastica, come lo fanno i divi di Hollywood. Che ne dici? Se questi sono i divi di Hollywood. Porno star che si chiama Roller Girl? È un porno star questo? No, lei no. Almeno non lo so. E tanto io, scena. No! Non si dice così, le canzoni sono tutte molto belle. Love You More su Radio Tour The Moving Station. Ok, ed eccoci arrivati al momento di Baci in Tour, la dedica consegnata sull'uscio di casa. Baci in Tour. Lara, qua siamo due al prezzo di uno. Tu sei in linea, ci sei? Sì, vi prendo, guarda, entrambi. Così ne ho uno, insomma, nazionale e un altro esotico e mi diverto alla grande. Magari se stasera non siete impegnati, va bene, adesso sto parlando dei fatti miei. Qui c'è da consegnare un Baci in Tour. Grazie Massimo. Ci troviamo a Licola vicino Napoli, siamo in un parco acquatico senza acqua, quindi Turello non ci provare a tuffarti, ok? Ecco, e sono in compagnia del destinatario che si chiama Enzo. Enzo, come va? Va bene. Senti, posso chiederti il motivo per cui sei qui? Stiamo preparando una trasmissione televisiva che svolgerà qua, in questa struttura. Ecco, quindi tu sei qui per lavoro, non per tuffarti. Per lavoro, anche perché non c'è l'acqua, quindi il tuffo potrebbe essere pericoloso. E infatti, diciamo che è meglio astenersi. Allora Enzo, adesso ti leggo il messaggio e tu dovrai indovinare chi te l'ha inviato. Il messaggio dice semplicemente ti vogliamo bene. Allora, sono due persone, ti aiuto, un maschietto e una femminuccia, di chi si tratta? Non so, c'è tanta gente che mi vuole bene, quindi è un po' difficile. C'è un coretto alle tue spalle. Allora, la femminuccia si chiama Ilaria Irrino? Sì! Ce l'abbiamo fatta. Chi sono Ilaria e Rino? Rino è un mio carissimo amico e lavoriamo insieme. Ilaria è la tua fidanzata. Bene, ok, quindi è un ménage à trois? Soltanto quando stiamo al ristorante. Va bene, insomma un rapporto mangeretto. Adesso per te c'è un regalo. Un gadget De Blasio Total Look di tendenza. E ricordiamo a tutti che i prodotti con il marchio De Blasio The Look of New Age si trovano esclusivamente nei migliori negozi della vostra città. Bene, adesso Baci in Tour a fare un po' di pappa. Ci sentiamo intorno alle 15:20 per un altro messaggio. Ciao! Ciao Lara, grazie! Fate battere il cuore delle persone chiamate. Prenotatevi immediatamente per il vostro bacio consegnato in diretta sull'uscio di casa o anche sull'uscio del parco acquatico, come in questo caso fa lo stesso. E ricordatevi che è gratis. Ed il numero è 081 790 1411. Baci in Tour, missione compiuta. Put your hands together. Che significa clap your hands, no? Yes, batte le mani. È un modo americano per dire batti le mani, put your hands together. Spesso quando si fa animazione in discoteca in Inghilterra oppure in America si dice put your hands together. O anche quando c'è un concerto, no? E un cantante vuole incitare un po' il pubblico, dice put your hands together. Questo è Black Legend, noi qua abbiamo l'Irish Legend. sì. Chi devi salutare? Chi devi salutare? Allora, ho ricevuto, guarda Fabio, che mostro hai creato, non lo so. Perché ho ricevuto un altro messaggio sul GSM Box, da Vittorio, dicendo che mi può fare conoscere un'altra bella napoletana col baffi. Ma che cosa? Ma sei tu che hai detto che ti piacciono le ragazze napoletane, belle, meridionali, scure, piene di peli, che non si sanno fare la ceretta? No, basta, basta. No? Ho sbagliato, scusa, me l'hai detto te, non io non c'entro nulla. Andiamo avanti con una cosa molto più seria. Questa è per Manuela, no? Manuela, una bella ragazza, un po' col lupo, col colloquio c'è scritto qua, speriamo bene. Devi fare un colloquio di lavoro, Manuela? Così dice qua. In bocca al lupo, in bocca al lupo. E poi, eccoci qua, chiamate subito, ci siete? Chiamate subito per chiederci le canzoni che volete ascoltare. Al più veloce, Radio Tour regala la canzone ed un eau de toilette per lui e per lei. Chiamate alla 081 790 1411. Perfetto, e vi regaliamo una bella canzone ed anche un profumino che ci sta benissimo. 22 minuti alle 13 del pomeriggio e quindi al termine di Baci in Tour la dedica consegnata sull'uscio di casa. E adesso ci sono i Fool's Garden, che parte dalle Filippine, diffusosi in tutto il mondo, ha colpito ben 10.000 computer in Italia, anche il tuo. Eh sì, ma come hanno saputo il mio? Perché senza il mio sarebbe 9.999, no? Non lo so questo, però comunque insomma, questa è la stima fatta da... insomma, è una notizia che è arrivata proprio in questo istante. GFF. Per lui e per lei, che vi aspetta in profumeria con fantastici viaggi in Australia. Ed ora, grazie a Rosaria, su Radio Tour The Morning Station vanno in onda i Backstreet Boys con I Want It That Way. Give up su Radio 3 The Movie Station. Anche oggi Rudolf Giuliani ha fatto una nuova dichiarazione. Ha un'altra donna oltre alla moglie. Incredibile. Cioè qua praticamente l'altro giorno si è alzato e ha detto: abbandono la corsa al Senato perché c'ho una malattia grave, ci dispiace per lui. Oggi si è alzato e ha detto: c'ho un'altra donna. Cosa ci rivelerà domani? Ma non era questo con le zero tolleranza? Allora io vorrei sapere adesso la moglie che dice. Zero tolleranza nei confronti dell'amante. Did I ever tell you? Su Radio Tour The Moving Station, canzone che ci porta alla conclusione di Baci in Tour, programma offerto in collaborazione, anzi, con le camerette a Canfora, arredamento specializzato per ragazzi che troverete anche sulle pagine gialle, sulle pagine utili, che tornerà ad essere con noi lunedì mattina. Ci vieni domani sera al Plinius a ballare con me? Non lo so se vengo domani sera, però di sicuro domattina ci vediamo a Piazza Medaglie d'Oro. Perfetto, allora domani mattina ci vediamo con l'evento Berna a Napoli in Piazza Medaglie d'Oro e domani sera ci vediamo al Plinius sul Lago d'Averno, Pozzuoli, sempre a Napoli. Grazie Fergal per essere stato con noi, buon weekend. Thank you Fabio, thank you. Da Fabio Brescia è tutto, grazie a Massimo Esposito per la regia, vi lascio con le Tour News.